Poi potrei fare del bibidi babidi. Poi potrei fare del bibidi babidi. Poi potrei fare del bibidi babidi. Poi potrei fare del bibidi babidi. Bibidi babidi. Bibidi babidi. Bibidi babidi. Bibidi. Bibidi. Bibidi. Bibidi. Babidi. Babidi. Poi potrei fare babidi. Poi potrei fare bibidi. Poi potrei fare babidi. Bibidi. Poi potrei fare bibidi del babidi. Babidi. Babidi. Babidi.